aeroporto di Linate, mitico, sito su 36.000 metri quadri, incredibile, 307 voli giornalieri internazionali e internazionali, e i bambini si annoiano, no, fai volare la fantasia, falli visitare l'aereo, sì, portami, perché un sorriso del mio bambino non ha prezzo. Live and direct, speriamo che si senta con l'ennesima puntata di Underground Pusher. Problemi tecnici a IOSA in questa giornata di sabato 24 ottobre, che hanno un po' ritardato la cosa. Non c'era coda al centro commerciale di Arese, ma comunque insomma c'era qualche problema con i mic. E vabbè, quindi diciamo ringraziamo lo staff della radio per esserci stato vicino, ringraziamo Pika. Presento il mio compagno di viaggio al microfono 2, il vostro amichevole bass boosted di quartiere, cioè il vocione che non ha bisogno dei bassi perché già è potente di suo, Gigi da Rimini. Bella raga, bella Twitch. Bella Twitch al microfono 1, me medesimo, Nino Stereo, la puntata è sugli NWA. Ovviamente all'inizio mettiamo le nuove uscite, abbiamo scelto un bel traccione di gruppo dall'ultimo album dei 16 Bar, che è un gruppo veneto che abbiamo ospitato tantissime volte qui tra le mura di ZAM. Sono usciti con loro, la loro ultima fatica quest'anno, questa settimana, mi sono impappinato, e il singolo che vi proponiamo è una traccia di gruppo, perché ci sono degli altri rapper che abbiamo ospitato appunto nelle gloriose mura di ZAM, cioè Virux e KO. Forse ci sono anche DSA Commando, che abbiamo ospitato per numerose volte. Praticamente è la traccia dei rapper che rappano a ZAM, sostanzialmente Big Trouble in Little Italy, si potrebbe anche chiamare Big Trouble in Milano Sant'Abbondio, ed è la prima traccia che vi proponiamo. Sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico. Non mi fai paura. Cacciatori, potenti sognatori, buttiamo le vittime dritte nelle fauci del mostro, unico dio nostro, divinità, oro dal mare raccolto, fertilità, mettiti là che ti racconto. Colava sulle nostre teste un cielo liquefatto, lo vidi quando ero bambino, chiuso nel tombino, penso di essere impazzito in quel momento esatto. Una fauna abissale ti calpesta, saliva colossale, gigantesco. Vedo orde di fedeli per un uomo in croce, voglio orge di nuovi fedeli, nuovi incroci dalla figa, sputa un petto abortito, con il capo appuntito, ricordi quando hai sentito quelle strane voci, nato con i tagli sul collo e le pinne, fuoco nelle pupille, nell'oscurità, solitario vago, chiesa sconsacrata, grido Yakatulu, Fataga, prega Zaga, Dagon. Le paludi dell'addio, posto dimenticato d'ogni vostro dio, tutti tranne il mio, ci protegge da sta terra persa, dona pace, campi fioriti, in cambio esige lingue umane nella spacca immersa, là dove l'acqua frigge sotto il moto di pesci impazziti, sa come nei temporali dell'estate, sotto cieli gonfi e nubi come cattedrali rovesciate, veste bianca per le tue sorelle, occhi profondi come celle, bozzi pulsanti sotto la pelle, sangue di capra sulla giacca, mentre cantano nella baracca, drappi di uova respirano sott'acqua, mentre il vento muove gli alberi della collina, un lampo si riflette su di un tappeto di prina, prendi di drago, pupille a capocchi attacco, con le mani tese verso il lago, prego il grande Dagon. Vuoi qualcosa di elettrizzante, un poco d'attenzione, corri in stazione, tocca i cavi dell'alta tensione, ti porto dove rilassarti, puoi dimenticarti che la vita ti dà la mano come i mendicanti, da ste parti la noia è un best seller, vomito sulle piastrelle, buffi nella notte come sentinelle, parole di HPL, branchi di palordi in capi di pelle, cappio al collo e penzoli sotto le stelle, occhi fluo tra i rami, spigli di chi osserva, seguiami il buio, ami anche il peggio che ti riserva, per il mio dio la palude placenta, sul fondo tormentato, canta nei sogni di un corpo fratturato, alimentato da odio incondizionato. Il nostro fatto è come il fischio di blatte nel prato. Nel mio cammino non vago in un religioso silenzio come a Santiago. Dacci la voce, sono d'ago. Figli di puttana sulle mani, o ti faccio esplodere con un drone come sulle mani. Ritorno tipo che è su spec. Dammi un beat, ne caccio 16 per Benny, John e Jack. Scrivo mentre sto in quarantena. Il mondo va a puttane, ma faceva schifo già prima. Fuori c'è uno scenario post-apocalittico. C'è paura del prossimo, è militare ogni angolo. Paura e panico, paura e panico. Ma è tutto ok quando sei un cinico apatico. Piccolo stupido, non fare il malinconico, che qua appena ti distrai un attimo finisci il cofano. Cose che capitano. Sogno il tuo capitano in una cassa di Morgano. Sono il cattivo, non sorrido come Ivan Drago. Offrimi un sacrificio come se fossi nato. L'estensione del mio cranio proiettata sulla terra fusa, gli occhi sbarrati e la mia bocca chiusa. L'aria si fa incandescente, i pensieri nutriti come fitte dentro al ventre, pensieri proibiti. Il sangue rosso crea contrasto, Dio degli abissi ascolta il nostro ossigeno. Saziati del nostro sacrificio, si manifesta la parte più bella di te. Sentire fuori la parte più brutta di me. Sento grida orribili sulla scacchiera, sporca il pavimento. Un rito squalido, un mare cattivo che ho dentro. Speravi nel perdono e al buon risveglio di nuove mattine, e invece paghi tutto fino alla fine. L'aria che si incendia, il tempo che si ferma. Spera che sia solo un varco sopra il ponte della pietra nera. Il vortice dell'acqua che si allarga, macchia sopra questo grande lago. Compagni a noi, guardo dalla vetta un baratro immenso avvolto dal silenzio. Il cuore pompa sangue lento, sto quasi impazzendo. Il confine del mondo, il ciglio dell'abisso, un salto senza corda giù dal precipizio. Terra gravida di orrori, pregna di leggende. In alto il fumo si attorciglia in spirali stupende. Qui la vita non si vende, si perde velocemente come dopo il morso di un serpente. Monolite cinto dalle fiamme, sacrificio, cattivo auspicio, vite colpite da un maleficio. Cilicio sulla pelle livida, foresta gravida. Leggende, orrori, nelle cavità. Corse su distese di ossidiana, urla di poiana. Il tempo scorre a scatti sulla meridiana. Oggi pago pegno appeso a un cappio fatto di spago. Offerto in sacrificio al grande Dago. Passeggiata sopra le rotaie, fra abbazie abbandonate, grida il buio dentro le risaie. Nelle nebbie del Polesine si muove silenzioso tra queste topaie. Sì, tra queste topaie, messe pagane nel suo onore, tra fabbriche e zuccherifici. L'orrore tra il cemento di questi edifici. Tu stai con me, io sto con te, questo mi basta. Tu che dici? Arrugginisce anime, la forza salmastra. Qui grazie a te non manca nulla. C'è spugli d'alghe che mi sfiorano le gambe ormai stanche. Una brisa foschia e la rugiada mattutina. La pazzia d'un uomo e la carenza di morfina. Grande Dio, noi staremo con te fino alla fine. Coi piedi nudi a bagno dentro le saline, dall'acqua scura dentro il grande fiume fino al grande lago. Rivelati ai tuoi sudditi, grande Dagon. E questo era Big Trouble in Little Italy. Ci auguriamo presto di rivedere tutta questa allegra combriccola, magari uno per volta. Beh, li abbiamo anche ospitati, insomma, a gruppi insieme, se non mi ricordo male, di essere a comando di 16 barre. E, insomma, speriamo di rivederli presto live, perché appunto live regalano sempre. E speriamo appunto di rivedere live anche il prossimo MC che introduciamo, che è uscito proprio ieri con un EP. Giustamente l'EP di ieri si intitolava Oggi. Beh, ovviamente oggi era oggi, quindi non poteva non uscire. Ecco, dopo queste mie elucubrazioni temporali, parliamo di Ensi con una traccia prodotta da Kanesh, se riesco a leggere bene, sono un po' astigmatico, featuring Kanesh, se riesco a leggere bene, che sono sempre astigmatico. La traccia si intitola 9-3-20, penso che voglia dire 9 marzo 2020, e appunto è uno dei singoli estratti da questo suo nuovo progetto che vi consigliamo di sentire. Yeah, non devo morire, ehi. I'm ready to die. Ehi, pronto a morire come Biggie nel suo primo disco. Come me per mio figlio. E proprio se devo spiegarlo che non puoi capirlo. cambia sempre, ma in fondo cambia niente, nada. Sta roba ce l'ho sotto pelle, Frank Sinatra. Più della droga c'è un'arma che non si dosa. È una femmina che scopa, che ama ma non ti sposa. Mi trovo ovunque vada, nei luoghi come nel tempo. Sarà che mi ha baciato sugli occhi e mi ha visto dentro. Ma arriva come l'inverno, come il mare d'inverno. È un film in bianco e nero, ma sfumature ne accento. Tu fuma pure l'accendo, mi cura paure e stress. Brucia come nel sesso, si dopa, accendi un incenso. Ma troviamo un modo per non cambiare sempre il giorno dopo. Che siamo andati troppo a largo per tornare a nuoto. Nessuno parla, sento il vuoto, forse ci capiamo. Devi odiare quanto odio per amare quanto amo. Devi odiare quanto odio per amare quanto amo. Devi odiare quanto odio per amare quanto amo. Ehi, ehi, ehi. Yeah, devi amare, devi odiare quanto odio per amare quanto amo. Sentimenti estremi come il gruppo che stiamo per introdurre, gli NWA, The Most Dangerous Group al mondo, The World Most Dangerous Group, un famosissimo gruppo seminale sostanzialmente per quello che riguarda le origini del gangster rap, che ha messo di prepotenza Los Angeles sulla mappa e che ha fatto conoscere al mondo il sobborgo di Compton. Un quintetto incredibile, sono stati attivi alla fine anche relativamente poco, dall'87 al 91. Nel frattempo, che appunto dicevo la data, è arrivato l'autore della sigla, e che yay pulsa Rito Bello vestito di grigio. Se azzeccavi un filo di più la tonalità, se venivi vestito di nero eri proprio in divisa NWA. Ah, sei nero, effetto della luce, mi sembrava grigio. E niente, sostanzialmente un gruppo che è stato attivo per 4 anni con 4 release, cioè 2 LP, un EP e una compilation non autorizzata. Tutto questo è stato sufficiente per fare la storia. E quindi, senza por tempo in mezzo, prima di tutta la cronistoria, partiamo col loro pezzo più famoso, Straight Outta Compton. Street Knowledge. Where you from? Straight out of Compton, another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this, but the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across, it's like burglary. The definition is jacking, but when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute, I find a good piece of pussy and go up in it. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. Get mad like a bitch is supposed to, but that shows me slut junk and pose to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. MC Ren controls are automatic for any dumb motherfucker that starts static. Not a right hand, cause I'm a hand itself. Every time I pull an AK off the shelf, the security is maximum, and that's a law. R-E-N spells red, but I'm wrong. See, cause I'm the motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing that's taking place without a clue. And once Cause you're on the scope, yeah, it's through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip, straight out of Compton. Compton, Compton. His name and the boys coming straight out of Compton. It's a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell, and if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him, but I'm smart, lay low, creep a while, and when I see the punk pass, I smile. To me it's kind of funny, the attitude showing nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling, looking for the one they call Easy. But here's a flash, they never see. Never seen like a shadow in the dark, except when I'm low. You see a spark and jump over a hesitation, and hear the scream of the one who caught the last penetration. Feel a little gust of wind and I'm jetting. Believe a memory, no one will be forgetting. So what about the bitch who got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E, and if you ever fuck with me, you get taken. State pogando su Straight Outta Compton, speriamo di sì. Noi qua stiamo facendo un pogo selvaggio, abbiamo coinvolto il povero Pulsar, che è stato appunto brutalmente coinvolto in questa situazione gangsterusa. Il livello di criminalità si è alzato tantissimo nella saletta della radio. Gli NWA sono appunto stati una vera e propria posse, nel senso losangelino del termine, una lineup anche piuttosto complessa. Inizialmente era composta da ovviamente Eazy-E, il fondatore, poi da Arabian Prince, Dr. Dre, Ice Cube e DJ Yella. Poi dopo aver pubblicato la compilation NWA and the Posse, si unì a loro anche MC Ren. Quindi diciamo un gruppo composito da più anime, perché Eazy-E era diciamo il componente più anziano e insomma era anche il leader del gruppo, aveva fatto parte per anni dei Natty Block Crips, un set di Crip della sua zona. Siamo a Compton, un sobborgo di Los Angeles, inizialmente una tranquilla periferia, poi è diventato praticamente una periferia violentissima in seguito all'esplosione della droga. E quindi Eazy, praticamente da ex drug dealer, diventa un imprenditore nel campo della musica. Non doveva neanche fare il rapper, diciamo la verità, perché aveva assoldato appunto Dr. Dre e DJ Yella, Die World Class Wrecking Crew come DJ e produttori, Arabian Prince, che appunto produceva anche lui roba electro, soprattutto siamo negli anni 80, quindi c'era roba electro, Ice Cube dai CIA, che era un gruppo diciamo di teenager, quindi come Ghostwriter, e aveva scritturato tantissimi altri sotto Ruthless Records, diciamo la sua casa discografica indipendente. Poi le cose hanno preso un'altra piega, si è unito MC Ren come appunto come altro liricista, e alla fine anche Eazy si è trovato a rappare. Anzi, stiamo per proporvi praticamente una delle prime apparizioni di Eazy-E sulla compilation chiamata NWA and the Posse, che appunto poneva embrionalmente la crew sul mirino e sulla mappa. Praticamente questa traccia era stata scritta per gli HBO, un gruppo newyorkese, gli Homeboys Only, che letto il testo si sono rifiutati di repparlo, e allora udite udite, il grande Eazy si è messo lì a repparla. Ci ha messo una settimana perché non aveva mai reppato in vita sua e reppava frase per frase, però diciamo che con qualche aggiunta sua è diventato un pezzo memorabile, che è il primo che vi lanciamo, Boys in the Hood. It's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking to trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Say what? Donna B in the place to give me the pace. You say my man JD is on free base. The boy JD was a friend of mine till I caught him in my car trying to steal an Alpine. Chase him up the street to call a truce. The city cluck head pulls out a deuce deuce. Little did he know I had a loaded 12 gauge. One sucker did LA Times front page. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking to trash, we'll pull your guard. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Place where my homeboys chill. The fellas out there making that dollar. I pulled up in my 6'4 Impala. They greet me with a 40 and I started drinking. And from the 8-ball, my breath starts stinking. Let me get my girl to rock that body. Before I left, I hit the club party. Went to a house to get her out of the bed. Dumb hoe said something that made me mad. She said something that I couldn't believe, so I grabbed a stupid bitch by a nappy ass man. She started talking shit, wouldn't you know? Reached back like a pimp, slapped a hoe. Her father jumped up and he started to shout, so I threw a right cross, cold knocked him out. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your card. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Questo era Boys in the Hood da NWA and the Posse. Easy E al microfono nella sua prima prova da rapper. Che cosa c'è da dire? Che sostanzialmente questa traccia è talmente leggendaria che l'abbiamo posta come prima traccia, diciamo, di NWA and the Posse, perché appunto con delle aggiunte fatte da Easy E è diventato un pezzo memorabile, come appunto già il primo verso, Rolling in the Streets with my 6'4, cioè la sua Impala del 64, che è diventata un po' il simbolo dei gangster rapper e dei rapper della West Coast, iperpopolarizzata da Easy, che effettivamente ne comprò una a soli 13 anni. Diciamo, era un ragazzo precoce. E appunto poi, come avete sentito, diciamo, nella prima quartina, anche la frase GTA, perché appunto tutta la traccia è uno storytelling dei ragazzi che si arrangiano nel quartiere, quindi anche rubando macchine. Infatti GTA vuol dire Grand Theft Auto. Magari ci avete anche giocato ai videogiochi. E attenzione, Boys in the Hood diventò talmente popolare come brano che nel 1991 il regista John Singleton decise di intitolare un film che appunto nel suo cast vedeva Ice Cube e Cuba Gooding Jr., oltre che Lawrence Fishburne, prima ancora di interpretare Morpheus in Matrix, appunto Boys in the Hood. Poi ovviamente il titolo italiano è stato storpiato in Strade Violente, come se c'entrasse qualcosa. Tra l'altro è un film che consiglio di vedere. Ci sono anche tra gli attori, ci sono diversi personaggi che avevano fatto davvero parte di gang. Qualcuno è anche deceduto in confronti a fuoco con le gang, quindi diciamo realmente real, anche se ambientato a South Central e non a Compton. Quindi diciamo tutto ciò ci porta alla prima vera release di NWA and the Posse. È un pezzo electro rap prodotto da The Arabian Prince che si chiama Panic Zone. Oh, outside is called the Black Zone. Do not attempt to adjust your radio. There's nothing wrong. The underworld is taking control. You're not only in the dimension of sight and sound, but of mind. There's a sign posted up ahead, and it reads, the Panic Zone. Now the party's at its peak, so we suggest you move your feet. N.W.A. create the groove, and Dr. Dre create the beat. So if you got the juice and you're feeling loose, let the music take your mind. The freaks are here, don't interfere, our world is one of a kind. This place is on the west coast of the USA. The Panic Zone's home base, in a place we call L.A. So ladies, all the ladies, if you're all alone, just call Arabian Prince. Zone. Ice Cube is from LA, he's in the Panic Zone, Panic Zone. Easy E is from Compton, he's in the Panic Zone, Panic Zone. Ray Briggs from Inglewood, he's in the Panic Zone, Panic Zone. Dr. Dre is from Compton, he's in the Panic Zone. Panic Zone. Noi abbiamo approfittato di questo pezzo electro, visto che ormai sono rarissimi, per sfoggiare quello che abbiamo imparato negli anni di breaking, facendo locking e muovendoci come delle anguille impazzite. Questo è uno dei pezzi più notevoli prodotti da The Arabian Prince. Vi ricordiamo appunto che siamo nel 1987, ma comunque c'era l'influenza appunto dei Warcraft Wrecking Crew, che era il gruppo di Dr. Dre e DJ Yell, che è stato il primo gruppo hip hop di Los Angeles a siglare per intero un disco. L'hip hop a Los Angeles appunto aveva questa venatura molto molto molto festaiola, c'era stata la LA Posse, poi diciamo il seme diciamo degli storytelling e del rap diciamo gangster è stato posto da Ice-T nel 1986 con Six in the Morning, che è uno dei pezzi penso più famosi dell'hip hop mondiale, con la prima barra diciamo ormai è leggendaria, è stata rifatta in tutti i modi. Diciamo all'epoca non si aveva ancora un'idea chiara di che cosa avrebbe proposto Ruthless Records, infatti gli NWA appaiono come formazione, cioè erano i Niggas With Attitudes, ma non si capiva neanche bene chi fossero. Sostanzialmente era un agglomerato di crew che aveva fatto questo CD, questa compilation, appunto. Infatti non c'erano soltanto quelli che poi sono diventati famosi come membri degli NWA, a parte MC Ren, che appariva solo sulla copertina in quanto amico di vecchia data di Eazy-E, ma appunto c'era anche la Fila Fresh Crew, di cui faceva parte The D.O.C., che poi è entrato a far parte della NWA Posse. Mi sembra ci fosse Serj Inks, che era dei CIA, poi non ha mai fatto parte letteralmente della NWA Posse. Poi c'era KD, Lonzo Williams, che era un'altra conoscenza comune di Eazy-E e Dr. Dre. Insomma era tutto un mischione da cui poi appunto sono venuti fuori i componenti di cui parlavamo prima. Diciamo comunque la compilation ebbe un buon successo e diciamo vi proponiamo un altro dei pezzi più iconici, si può dire, degli NWA di sempre, che tra l'altro svela un altro componente comunque molto presente nella discografia, che è un po' l'ironia, perché appunto questa traccia si chiama Dope Man, parla del dramma della droga nelle periferie, quindi si contrappone a delle barre più serie rappate da Ice Cube, che dice che appunto tanti giovani per la droga farebbero qualsiasi cosa, a degli intermezzi diciamo più umoristici a cura di Crazy D e di Eazy-E. Dope Man. Yo, man, I need something, man. I need a 20, man. And what you got, man? I got this rope chain, man. And this shit look like that gold on the road shit from the swap meet. It's real, man. This shit ain't real, man. You better get the fuck out of here and come back with some money, man. Come on, man. Be cool, man. Y'all Mexicans always come with this shit. Diamo il benvenuto ad Andy nella stanza della radio. Speriamo che gli piacciono anche a lui gli NWA. Ti piacciono gli NWA, Andy? Fa di sì, fa di sì. E allora, yeah. Direttamente dalla strada, il sound degli NWA che decisero nel 1988 di uscire col loro primo album. Una cosa che non abbiamo detto relativamente a NWA and the Posse, che sostanzialmente diventò disco d'oro nel 1994, quindi 7 anni dopo l'uscita, mentre invece appunto il disco Straight Outta Compton, che uscì nel 1988, diventò disco d'oro in meno di un anno, cioè disco di platino, pardon, in meno di un anno, quindi come dire, una lievissima differenza. Ebbe subito un grande impatto, fece conoscere Compton al mondo intero con la traccia appunto omonima, e appunto mostrò tante sfaccettature della società appunto alle periferie di una grande metropoli, con Fuck the Police, con Gangsta, che appunto dipingeva a tinte più o meno fosche quello che era, diciamo, il mondo che li circondava. Loro come dire, componenti del gruppo non sapevano di fare quello che al giorno d'oggi è chiamato il gangsta rap, ovviamente, ma diciamo che loro lo chiamavano, la loro musica, il reality rap, cioè quello che effettivamente era la realtà dei fatti, perché comunque ognuno di loro, chi più chi meno, aveva delle storie toste alle spalle, perché è vero, Eazy-E aveva fatto parte di gang, Dr. Dre appunto si era trovato coinvolto più volte in arresti perché appunto commetteva spesso e volentieri reati, tra cui infrazioni stradali che, diciamo, negli States qualora non le paghi finisci in carcere, veniva spesso scarcerato da Lonzo Williams, poi l'ultima volta venne scarcerato da Eazy-E. Ice Cube appunto veniva da una famiglia normalissima, solo che appunto il suo cognato, come dire, avendo una sorella maggiore, un giorno impazzì e sparò alla sorella maggiore uccidendola, quindi ognuno di loro aveva visto la società sostanzialmente degradarsi, durante la sua crescita, e hanno messo tutta questa rabbia, diciamo, nella loro musica. E quindi con questo pezzo che vi presentiamo ottennero anche un ottimo riconoscimento, quello di una lettera dall'FBI come intimidazione. Il pezzo si chiama Fuck the Police e indovinate un po', è stato riproposto in tutte le salse, anche ovviamente nelle marce di questa primavera per BLM, Black Lives Matter, perché ovviamente parla dell'accanimento delle forze dell'ordine contro chi ha la pelle più scura. Fuck the Police. Order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. Jail. We can go toe-to-toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread. Showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass. But drop your gat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day. But a nigga like Randall give a fuck to say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Yo, man, what you need? Police, open up. We have a warrant for EZ's arrest. Get down and put your hands behind my seal. What the fuck did I do, man? What did I do? Just shut the fuck up and get your motherfucking ass on the floor. Eazy-E, won't you step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit? I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes violence. A E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror. And is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the 8, he'll be the one that I take out and then get away. While I'm driving off laughing, this is what I'll say. Fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police. The verdict. Jurious finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie! That's a goddamn lie! Get him out of here! I want justice! Get him the fuck out of my face! I want justice! Out right now! Fuck you, you black motherfucker! Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police! Got him. Say goddamn they ruthless. Everywhere we go they say damn. NWA's fucking up the program. And then you realize we don't care. We don't just say no, we're too busy saying yeah. About drinking straight out the 8 bottle. Do I look like a motherfucking role model to a kid looking up to me? Life ain't nothing but bitches and money. Cause I'm the type of nigga that's built to last. If you fuck with me, I put my foot in your ass. See, I don't give a fuck cause I keep belling. Yo, what the fuck are they yelling? Hoping you sophisticated motherfuckers hear what I have to say. When me and my posse stepped in the house, all the punk ass niggas start breaking out. Cause you know, they know what's up. So we start looking for the bitches with the big butt. Like her, but she keep crying. I got a boyfriend. Bitch, stop lying. Dumb ass hooker ain't nothing but a dyke. Suddenly I see some niggas that I don't like. Walked over to him and said, what's up? The first nigga that I saw hit him in the jaw. Ren started stomping him and so did E. By that time, got rushed by security out the door. But we don't quit. Ren said, let's start some shit. I got a shotgun and here's the plot. Taking niggas out with a flurry of buckshots. Boom, boom, boom. Yeah, I was gunning. And then you look, all you see is niggas running and falling and yelling and pushing and screaming and cussing. I stepped back. Yo, questo era Gangsta Gangsta e prima c'era Fuck the Police, penso assieme a Straight Outta Compton, uno dei pezzi più famosi e più amati sicuramente degli NWA, che decisero di prendere subito una posizione netta. Del resto loro nella copertina dell'album sono in circolo come un omaggio a un famoso gruppo funk, e nel video di Straight Outta Compton è diciamo, contenuto anche il concept di Fuck the Police. Infatti nel video di Straight Outta Compton, diciamo, vengono arrestati da degli attori, appunto, che personano dei poliziotti. Diciamo il capo della pattuglia di polizia ha dei baffoni che ricordano quelli di Freddie Mercury, e gli agenti hanno le pistole che ricordano quelle di Tex Willer. Diciamo, comunque, era contenuto nel video anche il concept di Fuck the Police, che, considerate, era il 1988. Era sicuramente, anche al giorno d'oggi, è un concept che non tutti propongono, diciamo, preferiscono parlare di Lean o di Cinte Gucci. Diciamo, è un prendere una posizione abbastanza netta, perché comunque, diciamo, di angherie ne avevano subite tante. Poi ci sono delle altre voci che dicono, diciamo, che, come dire, venga dal fatto che, appunto, gli NWA siano stati messi faccia a terra da una pattuglia di polizia perché erano neri. Altri dicono che praticamente Eazy-E si divertiva a fare dei drive-by con la pistola da paintball, però mica la pistola vera, e quindi i passanti terrorizzati l'avevano identificato, diciamo, era abbastanza facilmente identificabile, e quindi poi gli avevano messo un po' il pepe al culo. Comunque, insomma, diciamo, riflettevano quello che poi, appunto, è stato riflesso anche nei film che abbiamo detto, Boys in the Hood, in cui, appunto, l'ufficiale nero di polizia dice al giovane protagonista che i neri non contavano un cazzo, piuttosto che un altro film super iconico come Men Up to Society, in cui è contenuta Dope Man, nella traccia in cui, appunto, Kane prepara il crack. E appunto anche lì vengono angariati da degli ufficiali di polizia, ovviamente quelli più crudeli sono neri. Comunque un tema riproposto in tante salse, da Sound of the Police di KRS-One a Black Cop di KRS-One, quindi, diciamo, erano in linea con il sentire del periodo. Ovviamente tutto questo scandalizzò l'opinione pubblica, perché erano neri, perché erano sfacciati, e anche nella traccia che stiamo per proporre loro propongono di esprimersi senza censure. Che dire, ovviamente sono in tanti, quindi giusto per fare una precisazione, ovviamente le produzioni sono di Dr. Dre e DJ Ella, che hanno campionato a tutto spiano, hanno anche fatto degli scratch. Molte produzioni sono anche di Arabian Prince, che poi, praticamente, una volta registrato il disco abbandonò il gruppo. La maggior parte dei testi è stato scritto da Ice Cube, MC Ren e da Daddy O.C., che è una cosa un po' particolare, perché, diciamo, al giorno d'oggi è acclarato che i rapper si scrivano da soli i testi. In questo caso qui, non avendo tutti lo stesso background, Dr. Dre è conosciuto come rapper e come produttore, diciamo, rappa occasionalmente, ma molto spesso le rime, erano state già impostate da Ice Cube e da Daddy O.C., così come Eazy-E effettivamente era un ex gangster, era, diciamo, un imprenditore, era la mente leader, ma non scriveva lui le rime, diciamo, ci metteva del suo, però effettivamente la maggior parte erano scritte da Ice Cube ed MC Ren, quindi, diciamo, c'era questa partnership molto molto molto importante. La lettera che gli venne inviata dall'FBI è ancora conservata nella Rock and Roll Hall of Fame. Che dire, continuiamo la nostra storia dopo aver messo Express Yourself. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it gets funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach, cause they don't flow like this one. You know what, I won't hesitate to diss one or two before I'm through, so don't try to sing this. Some drop science, well, I'm dropping English. Even if Yella makes it acapella, I still express, yo, I don't smoke weed or cess, cause it's known to give a brother brain damage, and brain damage on the mic don't manage nothing but making a sucker in you equal. Don't be another sequel. Express yourself. Express yourself. Express yourself. Jacks are made hollow. Expressing ain't the subject, because they like to follow the words, the style, the trend. The records I spin again and again and again. Yeah, you're on the other end. Watch your brother blend dope rhymes with no help. There's no fessing or guessing while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. ruthless is the way to go. They know others say rhymes but fail to be original, or they kill where the hip hop starts. Forget about the ghetto and rap for the pop charts. Some musicians cuss at home but scared to use profanity when up on the microphone. Yeah, they want reality, but you will hear none. They'd rather exaggerate a little fiction. Some say no to drugs and take a stand, but after the show they go looking for the dope man, or they ban my group from the radio here in WA and say hell no. But you know it ain't all about wealth, as long as you make a note to spread yourself. Then expression is a big part of it. You ain't efficient when you flow. You ain't swift moving like a tortoise, full of rigor mortis. There's a little bit more to show. I got rhymes in my mind embedded like an embryo or a lesson, all of them expression. And if you start fessing, I got a Smith & Wesson for you. I might ignore your record because it has no bottom. I get loose in the summer, winter, spring, and autumn. It's Dre on the mic getting physical, doing the job. The WA is the lynch mob. It's a macabre, but you know you need this, and the knowledge is growing just like a fetus or a tumor. But here's the rumor: Dre's in the neighborhood and he's up to no good. When I start expressing myself, yell a slamming, cause if I stay funky like this, I'm doing damage. Your armor be too hyped and need a straight jacket. I got knowledge and other suckers lack it. So when you see Dre, a DJ on the mic, ask what it's like. It's like we're getting hyped tonight. Cause if I strike, it ain't for your good health, but I won't strike if you just spread yourself. You express yourself. Sentite che scratch aggraziati, le manine di DJ Yella si facevano sentire. DJ Yella, tra l'altro, ha delle lontane origini italiane. A quanto pare Yella viene dalla parola italiana Yella, diciamo un po' trasformata. Che dire, è importantissimo quest'album, è un album seminale, cioè è un album che ha posto poi le radici di tutto un movimento, losangelino, che sostanzialmente da party rap è diventato un rap che parlava della vita di strada. E che cosa è importante? Che è un gruppo che con la propria etichetta indipendente, perché altre etichette non l'avrebbero prodotto altrimenti, si è comunque fatto strada, perché Ruthless Records appunto è nata dal niente e poi si è trovata un deal di distribuzione con Priority. E nonostante appunto i contenuti, che sono stati subito bollati come sessisti, macisti, violenti verso la droga eccetera, quindi non avevano neanche chissà che airplay, cioè passaggio in radio, ma sono subito diventati la colonna sonora delle strade, che probabilmente si era un po' stancata, diciamo, del pop da radio, dell'electro rap. E infatti hanno fatto due volte disco di platino nel corso degli anni. È diventato un gruppo che ha segnato la storia. E letteralmente, diciamo, introducendo anche un nuovo modo effettivamente di porsi, perché prima effettivamente i rapper erano alla ricerca del contratto, in questo caso sono diventati letteralmente imprenditori di se stessi. Quindi diciamo questo sparuto gruppo di giovani di belle speranze. E quindi questo è quello che succede fino al 1989. Nel 1989, appunto, dopo il successo travolgente di Straight Outta Compton, tra l'altro realizzato in sole 4 settimane, Arabian Prince lascia il gruppo, appunto per dispute relative alle royalty, quindi ai compensi del diritto d'autore, perché appunto a capo della Ruthless Records abbiamo detto appunto esserci Eazy-E, non abbiamo detto esserci anche Jerry Heller, che sostanzialmente era stato il primo manager di Eazy-E, era una persona assolutamente all'interno del music business, in quanto era stato tour manager anche di Elton John, dei Black Sabbath, dei Pink Floyd, quindi mica da ridere, aveva collaborato con tantissimi musicisti di alto livello. E sostanzialmente pare, secondo le memorie di Jerry Heller ormai defunto, che lui avesse un compenso del 20% relativamente a quello che entrava all'interno di Ruthless Records. Poi diciamo le parole di tutti i componenti degli NWA erano un pochino diverse, perché dicevano noi troviamo a casa nell'appartamento e lui a casa aveva il bagno con le foglie d'oro. Quindi diciamo c'erano delle dispute che hanno appunto portato Prima è uscito Arabian Prince, che diciamo non era proprio un componente di primo livello, anche se sostanzialmente era lì nei momenti cruciali. Poi in seguito Ice Cube, appunto per lo stesso motivo, lasciò il gruppo, e quindi il gruppo continuò in maniera un pochino più ridotta. E come dire, Ice Cube, essendo un liricista estremamente prolifico, andò subito a creare una partnership con la Bomb Squad, che era il gruppo di produttori dei Public Enemy, quindi cambiando un po' il suo sound, rendendolo ancora più potente, andandolo a registrare a New York e registrando America's Most Wanted, che diventò subito un grande successo, e distaccandosi totalmente dagli NWA, perché non li nominò. Gli NWA dal canto loro decisero invece, nel loro EP 100 Miles and Running, di omaggiarlo, con iniziando uno dei beef, una delle faide più famose del rap, che è quello che stiamo per andare ad ascoltare. Si intitola Real Niggas. NWA is back in this motherfucker, and this is only the single. Wait until the motherfucking album comes out. We gon' have some more of that good shit. The shit you just can't fuck with. But yo, we ain't finished. Tell them what's up, man. Yo, man, it's a gang of motherfuckers out there on the dick, man. In every motherfucking state. It's wanna be like, wanna look like, wanna act like, wanna dress like, wanna sound like, motherfucking style stealing, clone ass NWA biting ass motherfucker. Everywhere, man. Non-reality singing, non-reality feeling, non-reality living ass motherfuckers, man. Hey, I don't know, man. Reality is important to me, man. So fellas, man, tell these niggas what it's like in the minds of real niggas. Prisoner, like a hostage, yo, you should've covered your motherfucking head like an ostrich. Deep in the dirt, cause you's a sucker. And your ass up high so I can kick the motherfucker. Don't try to hang, your best avoid. Cause my foot'll be so far up your ass, you'll get hemorrhoids. Before you try to fuck with Ren, I'll put two in your ass and you'll be shitting size 10. First come, first serve. Whoever's got the nerve, step up and get what you deserve. From the word of a motherfucking hip-hop maniac, brainiac. So what you oughta do is step the fuck back. Now how the fuck you think the rap will last? With your ass saying shit that'll set the past. Yo, be original, your shit is sloppy. Get off your dick, you motherfucking carbon copy. Falling deep in the drums for many a styles was one of the reasons a nigga ran 100 miles. Cheating and out beating the crowd, I kept seating. But weak motherfuckers fighting off and they kept eating. Styles that kept full of bull, cause the vocals were local at nightclubs and not getting paid in full. And got the nerve to cuss. Only reason niggas picking your record is cause they thought it was up. Yo, giving what I gotta give, doing what I gotta do. You don't care for me, so who gives a fuck about you? You can't harm me, alarm me. Cause we're the generals in this fucking hip-hop army. The niggas with attitudes, if you didn't know, we blow flow and didn't move slow from the get-go. Yo, titles to take it. Yo, fuck this shit, yell a kick the break in. It's the real thing. You are now you run but you can't hide, you know I'ma find you. Cause a nigga like Rand's only 2 steps behind you. Don't look back because you're shaking and all scared. A nigga in black can be your scariest nightmare. So sleep with the lights on, forget that the mic's on. Don't step on the motherfucking stage without nights on. Go see a psycho and then you just might go mentally fucked up when I let the right blow. All these niggas with the jibber jabber, but couldn't kill a fly with a motherfucking sledgehammer. Gangsters in black are out there, but only because, yo, it's the shit that we wear on my motherfucking dick. But I'ma love it when you drop like a motherfucking brick. So yo, step off, go to bed, cause if you're misled, you get a motherfucking bullet in your forehead. Black, the good, the bad, the ugly, see? A little streetwise nigga, you know me. Rolling with some real niggas, playing for keeps. But you motherfuckers know who run the streets with that hardcore hip-hop rap shit. Now how much harder can another nigga get? Trying to be like us, sound like us, dress like us. Ashes to ashes and dust to dust. So nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, please. Since you own the dick, why'd you drop to your knees? Cause I'm a motherfucker that's out to kill. Easy E, a nigga that's real. Real niggas, straight off the streets of Compton. Quick to get in your shit without a second thought. And if your ass gets smoked, it's my bullet you caught. So if you're talking shit about the niggas in black, bow down to the kings and Raiderheads. They played out, that's what niggas was chatting. One nigga left and they said we ain't happening. People had thought we was finishing and done with. But if you think about it, yo, we really ain't done shit yet. So cover your ears and wipe your tears and quit sniffing all over my dick for new ideas. And when the new record comes, don't come like a fucking bum. Act with my fucking money to buy you a fucking crumb. Yo, the dicks are four niggas, not one. And when it comes to dicks, you don't even have one. So brace yourself to make sure you don't get fucked up. Cause if I let you slide, it's just cause you're lucked up. Don't come in my face again because I'm a floor ya. And if you're a bitch, I'ma fucking ignore ya. Because my attitude's a little bigger. Cause MC Ren is one of the real niggas. Lost in a motherfucking world of madness, sadness. But Dre, it's just a nigga that's glad it's sucking motherfuckers like you making whack jams. Whack jam. Because it only shows you how dope I am. Never try to ignore us. When I'm expressing, stand still like you're full of rigor mortis. Cause I'm a real nigga, but I guess you're bigger. You can break me, take me, but watch me pull the trigger. Dre is just a nigga with heart, a nigga that's smart, a nigga that's paid to stay when others are scared to play. We started out with too much cargo, so I'm glad we got rid of Benedict Arnold. Yo, N.W.A. criticize for what we say, but I'ma do the shit anyway. Cause I'm the motherfucking doctor, never faking. Yo, yella, kick the motherfucking brake. Hey, yo. E questo era Real Niggas, preceduto come intro da 100 Miles and Running. Che dire? Allora, questo qui è un EP, è l'unico EP degli NWA che andò comunque bene a livello vendite perché fece il disco d'oro. E praticamente, diciamo, è molto improntato alla faida che, insomma, nacque contro Ice Cube. Nel video di 100 Miles Running i componenti del gruppo vengono mostrati come incarcerati, tranne Ice Cube, un personaggio che interpreta Ice Cube, che viene scarcerato, come dire, dandogli un po' l'aria del collaboratore di giustizia. Appunto, la trama si chiamava Real Niggas, cioè i veri neri, sostanzialmente, appunto indicando Ice Cube come un fake e rivolgendosi a lui sia in questa in una barra appunto rappata da Dr. Dre, una delle praticamente sue ultime barre in stile frenetico, perché poi piano piano adotterà quel flow lentissimo cadenzato che tutti conosciamo, sia appunto in una barra di Dr. Dre che poi appunto nel successivo album Effie for Zagging, che tra poco introdurremo, viene chiamato Benedict Arnold, diciamo un personaggio della guerra di indipendenza americana, che praticamente era stato investito da George Washington di pieni poteri e poi passò al lato britannico. Sostanzialmente è un modo americano di definire il traditore, esattamente come dalle nostre parti il termine Giuda, e quindi diciamo non era proprio un complimento. Quindi Ice Cube, come dire, non avendo lo smartphone, non avendo Instagram, che cosa decise di fare? Invece di fare una storia in cui mostrava i gioielli, prese la penna e scrisse un EP che si chiamava Kill at Will, molto bello tra l'altro, in cui appunto lanciò delle frecciatine in Jacking for Beats e poi nell'ultima traccia, quella conclusiva, A Gotta Say What Up, appunto rappò da paura come sempre del resto e poi appunto dissò sostanzialmente i NWA. Praticamente gli venne chiesto da un intervistatore al telefono che ne è di MC Ren, DJ Yella, Dr. Dre e Easy, e lui si limitò a riagganciare. Questa è A Gotta Say What Up. Ice Cube's in the motherfucking house. Yo, I wanna say what's up to the niggas from the Lynch Mob. JD, T-Bone, Shoulder, Dale, yo, Sir Jinx, Chill, Dazzy D and KD, yo, and the rest of the mobs in the house, yeah. I wanna say what's happening to my man, Africa Bambaataa, and the mighty Zulu Nation, yo. I gotta give a shout out to the Public Enemy, yo. Y'all motherfuckers in the house, yo. And the niggas that's handling business, EPMD. Yo, I wanna say what's up to Uncle F, LL Cool J, the nigga from X Clan, yo. I gotta say what's up to Digital Underground and Humpty Hump, cause he making more than Donald Trump, you know what I'm saying? Yo, I gotta say what's up to the niggas that's paying dues, low profile, yeah, and that big ballin' ass nigga named King T, DJ Pooh, and the niggas that's dropping bombs on your ass, the motherfucking bomb squad. I gotta say what's up to Big Daddy Kane, yeah, and the Rhyme Syndicate, yo. And to the niggas that can slang them dogs, King Son, yo. I gotta say what's happening to my girl, yo, yo. She's stomping to the motherfucking 90s, Yeah, and the IBWC. My man Matt. Yeah, yo. And to the Macaframalama motherfuckers. Don't laugh, hoes. I'm down with the assholes, yo. I wanna say what's happening to the trigger happy motherfucking ghetto boy. Yeah. Run DMC and Jam Master J. That's a sign. And one time, gaffle him up. See him dump. Yo. I gotta say what's happening to my West Coast homeboy, Ice motherfucking T. Yeah. And my man from Oak Town, Two Shots in the motherfucking house. My man from the East Coast, Busy B. Yeah. The nigga from my block, King Ronnie Run, D-Dub, and my man Scratch. And you know that street knowledge is giving a punch. Yeah. I gotta say what's happening to my manager, Pat Charbonnet, and you know she don't play. And my nigga, the only nigga, Sir Jinx in the motherfucking house. Yeah. And to all the motherfuckers I forgot, y'all ain't did shit anyway, yo. This is dedicated to the niggas that was down from day one. Ice Cube in the motherfucking house. Coming at your ass with a gangster lean. Form 1990 style, you know what I'm saying? 5,000 G's. Hey, yo, Ice Cube, man, since you went solo, what's up with the rest of the group? If you need help, hang up and then dial your operator. Ehi, questo è il rumore inconfondibile di un telefono fisso. Non so se tra di voi all'ascolto vi ricordate i telefoni bianchi della SIP che avevamo a casa, le cabine telefoniche. Ecco, questo rumore c'era assolutamente familiare. Colgo l'occasione per salutare il nostro affezionato pubblico che oggi insomma ha tribolato un po' per sentire appunto le nostre mirabolanti gesta. Quindi saluto Zacca, saluto Sushi, saluto Gelo, saluto Dre, saluto Sharby, saluto tutti coloro che sono all'ascolto. E riprendiamo da dove avevamo lasciato, quindi da Agala Say What Up. Cosa succede? Che nel 1991 arriva un altro prodotto targato NWA, esce Effil for Zaggin, un album penso che si distingua sicuramente come una delle copertine più brutte della storia della musica rap al 100%. Sostanzialmente in copertina è raffigurata la scena di un delitto in cui appunto Dr. Dre, MC Ren, DJ Yella e Eazy-E sono appena stati uccisi, sono coperti appunto da dei teli bianchi per non far vedere i loro cadaveri, e appunto loro da sopra i lenzuoli loro riemergono, invece che diciamo in forma angelica sono sempre dei thug di periferia, pensa te. E quindi diciamo questa è la copertina meravigliosa di Effil for Zaggin, che comunque vi consigliamo di andare a sentire, come tutti i prodotti degli NWA. Ovviamente quest'album continuava la credine tra appunto i componenti del gruppo originario e Ice Cube, alzando il tono, perché appunto viene messa una skit, A Message to Benedict Arnold, corredata poi nuovamente da Real Niggas, la traccia che abbiamo ascoltato prima, dicendo appunto parole di MC Ren in Niggas for Life, che praticamente il disco di Ice Cube aveva venduto perché era considerato dal pubblico come un disco degli NWA, e tante altre amenità che quindi continuarono il solco appunto di questa divisione. Poi ovviamente c'erano tante altre tracce che parlavano ovviamente anche della vita degli NWA, c'era qualche traccia anche magari un pochino più umoristica come loro solito. Noi abbiamo scelto Niggas for Life, appunto una traccia diss nei confronti di Ice Cube, e Real Niggas Don't Die, che come dire al contrario parla di quello che è la loro comunità. Quindi qualunque cosa succeda, anche per dire appunto a parte della violenza poliziesca, i veri vengono ricordati. Quindi ve le mandiamo in coppia. Fuck flatline. Bullshit. Why do I call myself a nigga, you ask me? Well, it's because motherfuckers wanna blast me and run me out of my neighborhood and label me as a dope dealer, yo, and say that I'm no good. But I gave out jobs so niggas wouldn't have to go out. Gave up some dope in a corner so they could show out. When the cops came, they gave a fake name, because the life in the streets is just a head game. So therefore, to make more, a 15-year-old black kid will go and rob a liquor store and get shot in the process. He ate up a 9-bullet, now he's put to rest. Why do I call myself a nigga, you ask me? I guess it's just the way shit has to be. Back when I was young, getting a job was murder. Fuck flipping burgers, cause I deserve a 9-to-5 I could be proud of, that I could speak loud of, and to help a nigga get out of, yo, the concrete playground. But most motherfuckers only want you to stay down. But I'm a smart motherfucker, you see. One of the best producers in the rap music industry. Getting paid like a motherfucker, a young brother that don't give a fuck about another, yeah. Why do I call myself a nigga, you ask me? Because police always wanna harass me. Every time that I'm rolling. They swear up and down that the car is stolen. Make me get face down in the street and throw the shit out my car on the concrete in front of a residence. A million white motherfuckers on my back like I shot the president. Why do I call myself a nigga, you ask me? Because my mouth is so motherfucking nasty. Bitch this, bitch that, nigga this, nigga that. In the meanwhile, my pockets are getting fat. Getting paid to say this shit here. Making more in a week than a doctor makes in a year. So why not call myself a nigga? It's better than pulling the trigger and going up the river. And then I get called a nigga anyway. Booked as a motherfucker and locked away. So, to cut out all that bullshit, yo, I guess I'll be a nigga for life. Nigga! Practice! Nigga, please. I'm treated like a fucking disease. You say, why do I call myself a nigga so quick? Cause I can reach in my drawers and pull out a bigger dick. Yo, nigga say nigga, we cool, but crackin' say nigga, nigga, not the fuck up. But I gotta be a fast nigga to never be the last nigga, or I have to beat your ass, nigga. In the city, you see action first, then hear about it later in a verse. I curse because I'm real with this to keep my shit straight bumping. Murder created by the streets of Compton. I get it from the underground poet. I live it, I see it, and I write it because I know it. And if you think I'm fucking your wife, you're motherfucking right, yo. Cause I'm a nigga for life. I love niggas, I love niggas, I love niggas. Because niggas are men, and I should only love that for me. I love the two niggas. Nigga, this, nigga, that. The actual fact is that I'm black and bound to attract the attention of another, I mean the other. But I'm a motherfucker that'll have him run for cover. You see, I don't give a fuck about nothing except getting paid, getting bitches and issuing stitches, which is all needed to read it and find a rhyme. And then it's time to say the niggas here to stay. But what about the fake niggas, the house niggas? They get paid quick, they gotta suck a fat dick. But NWA is out of your motherfucking range. We ain't gonna change a motherfucking thing. I call myself a nigga cause my skin won't lighten. I call myself a nigga cause the shit that I'm writing hypes me, hypes other motherfuckers around me. And that's the reason why they wanna surround me and ask me, why do I call myself a nigga, bro? Ain't none of their fucking business cause I let the trigger go. So get out my presence and get out of my sight. Cause MC Ren is a nigga for life, yeah. You a nigga till you die. If you're a poor nigga, you're a poor nigga. If you're a rich nigga, you're a rich nigga. But you never stop being a nigga. And if you get to be educated, you just educated. You've been flashing for 400 years. Niggas know how to die. Niggas don't know nothing else but dying. Niggas dream about dying. I'm a motherfucking nigga. I'm a motherfucking nigga. I'm a motherfucking nigga. My ace, we got a taste of a motherfucker's billy club. He took his gun and put it to my head and said, nigga, start running. So tell me what's the E questo era Real Niggas, Don Dalio, questo era Effil Forzagin, uno dei dischi più famosi di sempre. Poi insomma, diciamo, i dischi degli NWA sono tutti famosi, anche perché, come dire, non sono stati molti, non abbiamo detto, ma pensiamo sia sottinteso, perché in realtà le carriere soliste dei rapper, diciamo, parlano, diciamo, da sole sostanzialmente. Una volta che, cioè, sia in parallelo per quanto riguarda Eazy-E, sia poi una volta che gli NWA insomma si sciolsero, ognuno andò per la sua strada, come Ice Cube, come Dr. Dre, come Arabian Prince, anche se in misura minore, MC Ren, che fu l'unico, diciamo, dei componenti a rimanere con Ruthless Records assieme a DJ Ella. Diciamo, tutti svilupparono una prolifica carriera solista, diciamo, però, come dire, la proprio la figura del gruppo degli NWA è talmente importante, talmente seminale, che sostanzialmente bisognerebbe fare poi delle puntate apposite, cioè, come dire, fare NWA 2 per parlare, perlomeno accennare alle carriere di tutti. Magari faremo una puntata unica, oppure faremo una puntata dedicata, tanto insomma devo dire, a me piacciono molto tutti quanti, anche MC Ren, che magari è uno di quelli mediaticamente meno conosciuti, però in realtà è molto molto molto molto capace il ragazzo. È stato uno proprio dei più dei liricisti più influenti della sua zona e dell'hip hop intero. Che dire, diciamo, ci sono altre due tracce appunto da Effil Forzagin da lanciare. La prima si chiama Appetite for Destruction, che sostanzialmente vede un video bellissimo da vedere, in cui appunto i componenti di NWA sostanzialmente si sono raffigurati come dei gangster degli anni 20, quindi stile Al Capone, fanno una rapina a una banca con quei mitragliatori lunghissimi a tamburo. Bellissimo. Bellissimo. E sostanzialmente cosa succede? Che non sapevano che traccia dare. Dr. Dre e DJ Ella stavano ascoltando a cannone Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, e allora MC Ren gli suggerì di scegliere Appetite for Destruction come nome di questa traccia. E l'altra traccia sostanzialmente è una traccia seminale, anche questa che vi lanciamo, perché è Always Into Something, quindi sempre in mezzo a qualche cosa, sempre in mezzo a qualche affare losco, ed è uno dei primi esempi, non uno dei primissimi, perché già Dope Man o Boys in the Hood lo era, ma proprio uno dei pezzi seminali di quello che poi diventò il genere G-Funk, e tra l'altro una traccia diss ad Ice Cube. Quindi ve le lanciamo in coppia, Appetite for Destruction e Always Into Something. For wasting and tasting the blood, thunder, I heard it when she screamed to drop, cause her son caught the slug. Relay this to no choice, and listen to the straight up man before they ban the voice. While I ride to the rhythm of a pop, remember the first nigga to run is the first to get shot. Whoever said that what I say you portray is negativity, need to come kick it in the city with me and find the black and crack. In fact, they take that shit back cause they don't wanna fuck with that. There's too many niggas to try to calm. If motherfuckers could get it, nobody would fuck with it. Appetite for destruction, for him to get a bit more shit, he gotta commit murder in the first degree of manslaughter, taking the life of his wife and young daughter. A whole city of bitches that look sucked up, and the niggas is killing and straight fucked up. Whoever said what I'm saying for greed, then I ain't even what they trying to feed. My appetite for destruction. You guys know who I'm talking to. Appetite is tremendous, so I'm gonna spin this track with some violence because they asked me to end this. Some trouble at a club cause I was nausea. A nigga tried to take advantage because of the kamikaze. He took a swing for my head, thought I was faded. Start running for the door, but the fucker never made it. The sound of the nine went bang, and all over the wall was his motherfucking brain. Cause I'm a nigga you can't sleep on, so set the alarm, cause I hit like a motherfucking bomb. I do damage with a nine in my hand, but the average nigga that don't know me don't understand. I'm from the streets, so therefore, you know I don't care for a sucker that ain't down with the real niggas, the niggas, the niggas. Yo, and that's the way that shit gotta go. And even so, at any time that the nine wanna leave, I got a 38 hitting up the sleeve, and it's ready to go to war, cause that's what it's here for. I shoot down a million niggas and shoot one more, and that's a million and one that couldn't hang with the appetite, cause they wasn't rapping right, so I had to destroy whoever was standing in my presence for fucking up the essence appetite for destruction. Cops put a hurting on your ass, man, you know. They really degrade you. White folks don't believe that shit. Don't believe cops degrade them. Oh, come on. Those beatings, those people are resisting arrest. Check it out, y'all. In the house, y'all. So I can show and flow and let the people know. So won't you ease on down to the yellow brick road to Compton. But first, let me show you something. I possess the ten commandments of the hip-hop culture. Known as the thief and murderer. First one. Honor thy nigga with the attitude. Gotta give respect to break your motherfucking neck. Second one. Always gotta fuck out of wedlock. I like it when the pussy goes snap. I'm a gangster fanatic. I fuck any fool trying to cause some static. Number four, here's what's in store. A crazy ass nigga that remains hardcore. Fifth one, my killing's just begun. I pulled out my gun, now they keep me on the run. Step six, kinda tricky. Can't forget that I'm motherfucking chicken shit. To the ones that try to play the E. By the time you get to seven, you'll be 6 feet deep. Number eight, make no mistake. Move real sneaky and you're bound to catch your prey. Ninth one, I gotta be raw. Brainwashing man-made law. Last but not least, I must be real. Number 10 is my appetite to kill. We interrupt this motherfucking program to bring you special public service announcement. So listen up. NWA is back in this motherfucker. 1990 motherfucking one. NWA back in this motherfucker, yo. Taking out all you commercialized ass niggas. And we on this laid back track. And we doing this one kinda smooth. So what you gonna do, Drake? Kick it. And so on, let the shit flow on. Because I need something to go off on. The motherfucking DRE serving a death wish. So I'ma hit you like this. Early in the morning, hopping to the BNZ. I got 44 ways of getting paid. Sitting in my lap as I roll up the Compton blocks. The scoop up ran, I heard shots. 1, 2, 3. Then I seen a nigga hopping the fence and it was ran on the motherfucking trigger. He got in the Benz and said, Dre, I was speaking to your bitch O'Shea. And as we roll on, I seen the patrol on creep. So we got ghosts before they beat me and ran in a black CD. Yo, hawking some funky shit by the DOC. I gotta get paid, paid in a hurry. See, I gotta have it if I'm not paid thoroughly. I start taking, making sure my shit is steady bumping. A nigga always in the sun. Fuck them motherfucking police, cause they swear to jetlock down and them kick them in this motherfucking ball. Goddamn police, fuck them. Come down, I'm searing. I heard a dope beat. Somebody told me that Buck did it. But if Dre didn't do it, I can't fuck with it. NWA is like a mix of fix of tricks. Real niggas with big dicks. You're taking a chance when you think that. Talking under your breath won't lead to young death. Fucking up shit and shit but a killing for a nigga labeled as being a motherfucking villain. But you don't know me, a record can't tell ya how so many prayed I'd be a motherfucking failure. Real niggas gotta have top ranking. I hooked up with three more niggas and started making funky ass shit for your system. Might sound nice so it makes you wanna listen to them. Sample of a ruthless organization, but you don't want a confrontation. Real niggas don't play. Yellow Easy Me and the nigga Dre. Yo, always making sure that my shit is steady pumping. A nigga always into something. Boom, boom, God, look at that bitch walking down the motherfucking street. Don't you know the I don't wanna hold my dick and then because that bitch's booty is so nasty. Yeah, the world's most dangerous group definitely in this motherfucker. Sending a shout out to all the bitches out there. Yo, you can get in the pickup and suck your dick up to your hiccup. You know what I'm saying? Yo, cause I'm a nigga for life and I really don't give a fuck. I'm going for mine every time I see a fucking softie. Funk strong as coffee. A nigga like that best to back up off me. Yo, cause these are the days and the times of the real nigga. False niggas end up as toss niggas. And that's on the real cause I'm a nigga that kills again and again. So tell them what's up, Ren. If I'm not into nothing I don't feel right. So I grab the 9 and the clip and go and murder motherfuckers at night. Because I start to fiend from sitting in a cell where the crime was too tragic and couldn't make bail. So now they gotta hold me and listen to rehabilitation over and over. Saying they told me, but I don't give a fuck cause I know my shit is pumping. A nigga always into something. 1991 and NWA get the job done. Admiral Dancehall gonna sing this little tale about a girl that's quick to lick me dick. It goes something like this. The girl could be licking a dick. The girl could be licking a dick. The girl could be licking a dick. She got the dirty outfit. The girl be wicked a wildy. Girl be wicked a wildy. Wicked a wicked a wicked a guy. E, oh, e questo era Always Into Something con la partecipazione di un noto cantante dancehall, come avete potuto sentire. Quindi dopo tutta questa serie di diss, che cosa poteva accadere? Ovviamente, non essendoci Instagram, ripeto, cosa poteva succedere? Che ovviamente il tono del diss si alzò anche a livello fisico, perché in realtà gli Above the Law, che era uno dei tanti gruppi sotto contratto con Ruthless Records, perché ovviamente il grande successo di Straight Outta Compton aveva portato Ruthless Records a ingrandirsi, perché poi ovviamente c'erano gli Above the Law, che sono diventati un gruppo importantissimo per quello che riguarda il G-Funk, c'erano i Bone Thugs and Harmony, che hanno praticamente dedicato ogni album alla figura di Eazy-E, insomma c'erano moltissimi gruppi sotto l'ala protettrice della Ruthless Records, che tra l'altro questo portò anche a proprio un scontro fisico tra gli Above the Law e Ice Cube. Ice Cube si era dei gambe levate, tra l'altro, e quindi diciamo portò questa serie di dissing ha uno dei più famosi dissing di sempre, No Vaseline, contenuto nell'album Death Certificate di Ice Cube, un altro dei grandi successi di Ice Cube, che appunto insultava a ripetizione tutti i componenti degli NWA, compreso Jerry Heller, dicendo appunto che i neri si erano fatti sottomettere da un ebreo, perché Jerry Heller effettivamente era di origine ebrea, quindi scatenando anche quelle che nei media americani, diciamo, era un'accusa abbastanza facile da tirar fuori, cioè quella di antisemitismo, in quanto Ice Cube faceva parte anche della Nation of Islam, quindi diciamo un modo per screditare un nero che aveva fatto i soldi con il rap, che era pure musulmano. Meglio di così, diciamo, non si poteva fare. E allora, diciamo, questo, tra l'altro questa qui è la traccia che chiude un po' il diss, perché poi gli NWA non risposero più, quindi diciamo, stando a quello che è un po' la regola non scritta del diss, la regola non scritta del rap, il diss l'ha vinto Ice Cube, però bisogna dire, l'ha scritto meglio, a parer mio personalissimo. Questa è No Vaseline. Now you just went and saw Bert, you was down with the AK. And now I see you on a video with Mitchell Lay, looking like straight bozos. I saw it coming, that's why I went solo and kept on stomping. While y'all motherfuckers moved straight out of Compton. Living with the whites, one big house, and not another nigga in sight. I started off with too much cargo, dropped four niggas, now I'm making all the dough. White man just ruling. The niggas with attitudes, who you fooling? Y'all niggas just phony. I put that on my mama and my dead homies. Yellow boys on your team, so you're losing. Hey, yo, Dre, stick to producing. Calling me on a butt, you Benedict. Eazy-E saw your ass and went in it quick. You got jealous when I got my own company. But I'm a man, and ain't nobody helping me. Trying to sound like American most. You can yell all day, but you don't come close. Cause you know I'm the one that flow. You done ran 100 miles, but you still got one to go. With the L-E-N-C-H-M-O-B, and y'all disgrace to CPT. Cause you're getting fucked out your green by a white boy with no Vaseline. Damn, it feels good to see people mourning. The bigger the cat, the bigger the pellet. Who gives a fuck about a punk ass villain? You're getting fucked real quick, an easy dick. It's smelling like MC Ren shit. Tried to tell you a year ago, but Willie D told me to let a hoe be a hoe, so I couldn't stop you from getting ganked. Now let's play Big Bank, take Little Bank. Tried to diss Ice Cube, it wasn't worth it, cause the boomstick fits your ass so perfect. Cut my hand, I cut them balls, cause I heard you like giving up the draws. Gang bang by your manager, fella, getting money out your ass like a motherfucking ready teller. Giving up the dollar bills. Now they got the villain with a purse in high heels. So don't believe what Ren say, cause he's going out like Tooth the Kid Tape. But I got a whip for you, Toby. Used to be my homie, now you act like you don't know me. It's a case of divide and conquer, cause you let a juke break up my crew. House nigga got a running high, yelling Compton, but you moved to Riverside. So don't front MC Ren, cause I remember when you drove a B210. As a motherfucking joke, let you on the scene to back up the first team. It ain't my fault. One nigga got smart and they ripping your asshole apart by cutting your grin. Oh yeah, the villain does get fucked with no Vaseline. E questo era No Vaseline. rime esplicite, esplicitamente esplicite. Diciamo che questa qui è stata un po' l'era dei dissing, diciamo, dei dibattiti. In questo caso era un dibattito finanziario che poi si è spostato nel rap e nella vita vera. E diciamo, ovviamente questa cosa qui del dissing se la ricorderà chiunque segua un minimo il rap, perché comunque ha poi coinvolto anche l'hip hop italiano fino a qualche anno fa. Perché poi sostanzialmente sì, c'è ancora qualche rapper che magari ti lancia le frecciatine con i dissing su traccia, ma normalmente sono rapper, diciamo, della più vecchia maniera. Ormai normalmente, come dire, il dissing non esiste più su disco, ma viene, diciamo, relegato alle storie Instagram, che poi vengono ranzate via, la gente se le va a vedere su YouTube, social boom, piripipi, piripi qua, e invece alla fine, come dire, forse è meglio, io appartengo a una mentalità un pochino più vecchia, forse innanzitutto sarebbe meglio chiarirsi, diciamo, faccia a faccia, qualora non sia possibile. Alla fine ci sta farli, essendo rap, una competizione di rap, farli su disco piuttosto che su Instagram o sui social o su Facebook, quando c'era l'utilizzo di Facebook, che poi si rivelano soltanto in una pioggia di commenti in cui interferisce il pubblico. Alla fine, se è una cosa tra artisti, cioè fatela restare una cosa tra artisti, e il pubblico alla fine decreterà il migliore parlando di rap e non parlando di collane piuttosto che altre cose. Perché comunque bisogna dire una cosa molto importante: gli NWA, sia come gruppo che come presenza solista, guadagnarono un bel po' di quattrini, però, come dire, non esibivano così tanto la loro ricchezza, cioè, esibivano, insomma, di essersi messi a posto con le loro finanze, di non morire più di fame, però, come dire, il contenuto del loro rap non era io c'ho la cinta, c'ho i soldi, non facevano, pur potendoselo permettere, i video, come dire, insieme a donne di comprovata moralità, ecco, eccetera, eccetera, eccetera, sfoggiandole come oggetti, eppure erano tacciati di misoginia, favoreggiamento della droga e quant'altro. Insomma, bisogna dire che loro hanno tracciato il solco che poi, insomma, ha portato a ben altro. Cosa succede dopo Nove Eslin e dopo Efil Forzaghi? Sostanzialmente gli NWA si sciolgono, perché appunto le tensioni finanziarie continuano. Questa volta a lasciare il gruppo sono Dr. Dre e The D.O.C., che appunto si accasano non senza problemi a Death Row Records, capitanata da Suge Knight, che era un ex buttafuori di locali di Los Angeles, nonché affiliato dei Blood, diciamo una figura molto misteriosa che, insomma, ha dominato tra crimine e illegalità l'industria del music business, fondando Death Row, il cui logo era già abbastanza inquietante perché era un uomo sulla sedia elettrica. I capitani della Death Row furono appunto Dr. Dre e il giovane creep magrissimo Snoop Dogg. Poi al roster si unì, dopo la carcerazione, anche la buona anima di Tupac Shakur. Poi ovviamente fecero parte di Death Row moltissimi altri, come The Dog Pound, come Corrupt, come Daz Dillinger, che sarebbe praticamente il gemello di Zacca, solamente di Long Beach, e insomma moltissimi componenti in questa nascente scuderia, sfruttando comunque il talento alle produzioni di Dr. Dre. Cosa successe? Eazy-E non voleva lasciar partire Dr. Dre, appunto, nonostante ci fosse questa disputa verso Eazy-E e Jerry Heller, perché venivano accusati di tenersi i compensi di buona parte del pubblico, cioè degli altri componenti degli NWA. Sostanzialmente, dopo un alterco con Suge Knight diede un pizzino sostanzialmente a Eazy-E con l'indirizzo di sua mamma. Gli disse: so dove vive tua mamma, che dobbiamo fare? E allora Dr. Dre e The D.O.C. appunto si accasarono lontano da Ruthless Records. Poi, tra l'altro, The D.O.C. aveva già smesso di rappare, poi riprese a rappare dopo anni, perché aveva subito un gravissimo incidente automobilistico in cui le sue corde vocali rimasero danneggiate permanentemente. Infatti su The Chronic, che è poi il primo album di Dr. Dre al di fuori di Ruthless Records con Death Row, si sentivano degli skit di di The DOC con una voce terrificante. The Chronic, Dr. Dre, quasi tutto scritto come testi da The DOC, rappato da Dr. Dre e Snoop Dogg, ha estratto come primo singolo Fuck With Dre Day, in cui Dr. Dre non risparmia accuse a Jerry Heller e Eazy-E. Anche il video è abbastanza esemplificativo, perché Eazy-E viene rappresentato come uno che per soldi farebbe qualunque cosa, ed era sostanzialmente il cagnolino di Jerry Heller, e diciamo è diventato un altro dissing assolutamente iconico. Questo è Fuck With Dre Day. Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick, so I know you got your dick on hard from fucking your road dogs, the hood you threw up with, niggas you grew up with. Don't even respect your ass, that's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace, now I wanna slap the taste out your mouth, make it bow down to the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot, let you slide, let me ride, just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on, stomping on the easiest streets that you can walk on. So strap on your Compton hat, your locs, and watch your back, cause you might get smoked low. And pass the bud, and stay low key, BG, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to, you fucked with me, now it's a must that I fuck with you. Yeah, that's the fuck I'm talking about. We have your motherfucking record company surrounded. Put down the candy and let the little boy go. You know what I'm saying? Funk motherfucker. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Doggy dogs in the motherfucking house. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Death rows in the motherfucking house. Wow, wow, wow, yippee yo, yippee yay. The sounds of a dog bring me to another day. Play with my bone, would you, Timmy? It seems like you're good for making jokes about your Jimmy. Well, here's the Jimmy joke about your mama that you might not like. I heard she was a Frisco dyke, but fuck your mama. I'm talking about you and me, toe to toe. Tim, M-U-T, your bark was loud, but your bite wasn't vicious. And the rhymes you were kicking were quite bootylicious. You get what doggy dog, oh, is he crazy? With your mama and your daddy hollering, baby. So what that lets you know? That if you fuck with Drake, nigga, you fucking with Death Row. And I ain't even swinging them things. I'm hollering 187 with my dick in your mouth, bitch. Yeah, nigga. Compton and Long Beach together on this motherfucker. So you wanna pop that shit, get your motherfucking cranium cracked, nigga. Step on up. Now, we ain't no motherfucking joke, so remember the name. Mighty, Mighty DR. Yeah, motherfucker. Now understand this, my nigga Drake can't be touched. Luke's bending over. So Luke's getting fucked. Buster. Buster thought I was sleazy. I thought I was a mark, cause I used to hang with Easy. Animosity made you speak what you spoke, ayo, Dre. What up? Chip this nigga off, love. If it ain't another hoe that I got to fuck with, gap teeth in your mouth, so my dick's got to fit. With my nuts on your tonsils, while you're on stage rapping at your whack ass concert. And I'ma snatch your ass from the backside and show you how Death Row pull off that hoop ride. Now you might not understand me, cause I'm a Robbie and Compton and blast you with Miami. Then we gon' freak to South Central on a street knowledge mission. As I steps in the temple, Spotty got him. As I pulls out my strap, got my chrome to the side of his white socks. You tryna check my homie, you best check yourself, cause when you diss Dre, you diss yourself. Motherfucker. Yeah, nigga. So I don't want no Se non ci avete mai giocato, non ve lo ricorderete. Se ci avete giocato, ve lo ricorderete. GTA San Andreas, c'era Radio Los Santos che lo proponeva ogni due secondi. Questo è uno dei più famosi dissing di sempre, Fuck With Dre Day, a cui Eazy-E non poteva non rispondere, facendo addirittura un EP, It's About Dre, che poi veniva ranzato, veniva cancellato a penna, ed era diventato It's About, cioè It's On 187 Kill, perché come dire, c'era una famosa traccia 187 che poi diventò famosa come Deep Cover, la prima traccia di Dr. Dre e Snoop Dogg assieme, che appunto era contenuta nel film Deep Cover, in cui dicevano Yeah and You Don't Stop is 187 on an Undercover Cop. 187 è il codice degli Stati Uniti che indica come dire, la gente a terra, la gente sotto copertura che viene colpito a terra, quindi la gente come dire infiltrato che viene scoperto e viene sforacchiato, quindi diciamo sostanzialmente indicando che Dr. Dre non era un vero gangster, che poi era anche la verità, mentre invece nel video diciamo di Fuck with Dre Day, insomma Dr. Dre esagera un po' mostrando di voler sparare addosso a Easy, diciamo forse l'aveva fatta un po' fuori dal vaso, e allora Easy E da bravo ex gangster non poteva non cogliere la palla al balzo, quindi facendo un EP intero di insulti a Dr. Dre, con diciamo sicuramente il suo timbro, perché ovviamente lo accusava di essere omosessuale, di non essere un vero gangster, di essere un fake, diciamo è il primo caso di si direbbe sputtanamento, adesso non so, smerdamento per non dire sputtanamento, usiamo un altro svergognamento a livello mediatico. Perché? Perché sostanzialmente il pezzo più iconico di sempre riguardo a questo dissing è Real Motherfucking G's, in cui Easy E duetta con i due fratellastri Dresta e BG Knockout, The Original Baby Gangsta, che sostanzialmente erano due fratellastri che erano appena usciti dal carcere, erano noti più per essere dei gangster che per essere dei rapper, infatti questa è la loro traccia più famosa, poi dopo hanno fatto un album, Real Brothers, ma non ebbe sto successo. Poi Dresta si trovò coinvolto in un conflitto a fuoco che tra l'altro terminò in un omicidio, quindi sotto indagine eccetera, poi si trovò tra l'altro a lavorare per Death Row, cioè la casa dissata da lui eccetera, mentre invece BG Knockout praticamente poco tempo dopo venne arrestato nuovamente e passò del lungo tempo in prigione. Sostanzialmente questo video mostrava il gruppo nelle periferie di Los Angeles in atteggiamento minaccioso, si vedeva una mano con dei pixel che insomma era la mano di Easy che reggeva una pistola, e durante tutto il video si vedevano le foto di Dr. Dre quando militava nei World Class Wrecking Crew, che ovviamente era un gruppo electro rap, un gruppo che suonava nei club, la cui iconografia diciamo si ispirava ovviamente ai modelli di quel periodo, che erano Prince, che erano Michael Jackson, quindi giacca con i brillanti, come si dice, giacca paillette, il mascara, il trucco, il viso perfettamente rasato, insomma un look che sì, insomma un po' che ricordava anche quello di David Bowie, che insomma era un look androgino che era l'esatto opposto poi di quello che proponeva Dr. Dre, con un look carico di testosterone, quindi diciamo proprio svergognato agli occhi di tutti, poi insomma come hanno fatto moltissimi altri rapper, quindi diciamo dicendo molto banalmente non puoi fottere con noi. Infatti poi nessuno volle più fottere con Easy. Quindi sostanzialmente questa è la storia di uno dei dissing più famosi di sempre, e anche tramite appunto YouTube e compagnia bella trovate tutto lì, Real Motherfucking G's. Stop to these motherfucking real cheese. business. So you better your dreams. Maybe you should have known by now. So you better your dreams. Every day it's a new rapper claiming to be dapper than the trickster. Sober than a bitch, but betray the role of gangster. Ain't broke a law in your life. Yet every time you rap, you yap about the guns and knife. Just take a good look at the nigga and you'll capture the fact that the bastard is simply just an actor who mastered the bang and the slang and the mental of niggas in Compton, Watts, and South Central. Never ever once have you ran with the turf, but yet in every verse claim you used to do the dirt. But tell me who's a witness to your fucking work? See, you never handle business, so say the drama jerk. Niggas straight kill me knowing that they pranked us. This is going out to your studio gangsters. See, I did dirt, put in work, and many niggas can vouch that. So since I got stripes, I got the right to rap about that. But niggas like you, I kinda hate you, cause I'm just tired of suburban niggas talking about they come from projects, knowing you ain't seen no parts of the streets, G. Think you started trying to bang around the time of the Peace Treaty, wearing khakis and my white, your rhyme little fag trying to sing, but you're flooding at the same time, and your set don't accept you. Scared to kick it with your homies, cause you know they don't respect you. So nigga, please check nuts before you step to these motherfucking real well, it's the knockout definition, original baby gangster. Approach me like you hard motherfucker, I'ma bank ya, shank ya with my fucking shank if I have to. Dr. Dre and Snoop Doggy Dogg are fucking actors, gangsters, studio gangsters, busters, but this time you're dealing with some real motherfuckers. Jeez, nigga, please don't try to step, cause if you do then I build captors, all that would be left. See, young niggas like me, I'll break you off something, claiming my city, but Dre, you ain't from Compton. Niggas like y'all is what I call wannabes, and ain't shit compared to real motherfucking G's. E questo era Real Motherfucking G's. E quindi questa è un po' la parabola che si va un po' a concludere, diciamo. Noi siamo verso la conclusione, siamo verso, diciamo, la parte più triste della storia, perché dopo questa faida sanguinosa che aveva sostanzialmente lasciato Eazy-E da solo, perché anche il suo caro amico MC Ren aveva deciso di non parlargli più, e sostanzialmente per un paio d'anni non si parlarono più, rimasero colleghi di lavoro, perché appunto MC Ren rimase sotto Ruthless Records anche dopo la morte di Eazy-E, perché appunto Ruthless for Life venne pubblicato nel 98, ben dopo la morte di Eazy-E. Shock of the Hour, Kiss My Black Ass, che tra l'altro diventarono anche dischi di grande successo, vennero fatti sotto Ruthless Records, ma puramente come rapporto lavorativo i due non si parlavano più, perché sostanzialmente Eazy-E veniva accusato di essere un megalomane e sostanzialmente veniva bollata da tutti i componenti degli NWA, è stata bollata in maniera inderogabile il suo legame con Jerry Heller, che sostanzialmente dicevano lo avesse plagiato, oltre al fatto di accusarlo che si mangiasse i soldi assieme a Jerry Heller, quindi sostanzialmente li vedevano come complici più che come dire come alleati. Quindi sostanzialmente tutto questo portò anche MC Ren e Eazy ad allontanarsi. Poi il duo ricomparì, si riappacificarono nel 1995 scrivendo una traccia che poi uscì su Straight of the Motherfucking Streets of Compton, che diventò un album postumo. Sostanzialmente nel febbraio del 1995 Eazy-E si sentì male, andò all'ospedale e gli venne diagnosticato l'HIV. Poi appunto su tutto ciò venne fatta molta letteratura, perché sostanzialmente non ci fu un decorso della malattia. Eazy-E scomparì esattamente un mese dopo, il 26 di marzo del 1995, all'età di soli 30 anni, appunto per le complicazioni dell'HIV, che appunto essendo immunodeficienza gli fece degenerò in polmonite, degenerando tra l'altro anche abbastanza rapidamente in coma. Quindi sostanzialmente una volta che scoprì di essere letteralmente condannato a morte, Eazy-E fece un ultimo discorso pubblico rivolto al suo pubblico, dicendo appunto di non mai abbandonare i propri sogni, e insomma di poter, che sarebbero voluti arrivare dovunque, ad esempio come ha fatto lui. E 12 giorni prima della sua morte sposò Tomica Woods, che poi divenne Tomica Wright, appunto essendo che il suo vero nome era Eric Wright. Tomica Woods poi continuò alla direzione della Ruthless Records e poi diresse il soggetto e partecipò alla regia di Straight Outta Compton, che poi diventò il biopic sugli NWA. Sostanzialmente prima della sua scomparsa, dopo questo Floyd molto molto molto sanguinoso, si riappacificò con Dr. Dre quando Ice Cube, come dire, si recò a rendere di visita. Ormai era già in coma, ma in realtà Ice Cube poi rivelò in un'intervista del 2011 che si erano visti in un pub a New York qualche mese prima. Easy ancora non sapeva di essere malato sostanzialmente, e quindi insomma si rividero e cancellarono la credine dei vecchi tempi. E che dire, appunto Easy lasciò una grande eredità, appunto lasciata nell'album. Tutti i componenti decisero, diciamo, di seppellire l'ascia di guerra, appunto salutandolo anche in Ruthless for Life di MC Ren, di tributarlo come giusto che fosse. Easy lasciò insomma qualche figlioletto, perché appunto ebbe la bellezza di 11 figli da 9 donne diverse. Uno dei suoi figli, il suo primo figlio nato nell'84, rappa con nome di Little Easy E, e sostanzialmente appunto l'HIV venne imputato al fatto che sostanzialmente lui cambiava molto spesso la propria partner. Quindi diciamo questa è un po' la fine della parabola degli NWA. DJ Yella fece da supervisore appunto quest'ultimo album postumo e poi si diede alla carriera di regista nel mondo dei film porno, dirigendone più di 300, e ecco, e quindi diciamo questo è un po' quello che avvenne dopo la scomparsa di Easy. Appunto venne omaggiato sia su Ruthless for Life che su due tracce che sono quelle che vi stiamo per andare a proporre. Una si chiama Hello e viene da War and Peace del 2000, il secondo disco, The Peace Disc, di Ice Cube, e l'altro viene dalla colonna sonora di Next Friday, appunto, ed è rappata da Ice Cube e da MC Ren e Dr. Dre. What the fuck's up, Dre? Tell me, talk to Ren. I'm right here, nigga. Release the hand. Wow, wow, wow. What? I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. And I don't give a fuck, I keep it gangsta, y'all. I'ma ride for my side in a CPT. God bless the memory of Eazy-E. If it wasn't for me, where the fuck you be? Rapping like the Treacherous Three, fucking cowards. I done seen Dre rocking parties for hours. And I done seen Ren fucking bitches from Howard. And I done seen Snoop give away an Eddie Bauer. So fuck Jerry Heller and them white superpowers. This is shit niggas kill folk. They hit a villain nigga spitting with them nigga flows. Fuck you hoes, fuck you bitch ass niggas too. Got something for your throat. These niggas wearing skirts like the Pope. Who them niggas that you love to get? Who them niggas that you fucking with? Love to yell that we the shit. The saga continues with the world's most dangerous group. Four deep in the coop, it's I'ma the smoke villain. Where I wanna smoke. Fuck that. I'ma joke who I wanna joke. Fuck that. I'ma ride where I wanna ride. Fuck cause that. I'm a nigga for life, so I'm a nigga till I decide. I'ma smoke where I wanna smoke. Fuck that. I'ma joke who I wanna joke. Fuck that. I'ma ride where I wanna ride. Fuck cause that. I'm a nigga for life, so I'm a motherfucking nigga till I decide. A pencil, a pen, or a Glock, I'm the original, subliminal, subterranean, titanium, criminal, minded, swift, D.R.E. with that fuck a bitch shit, fuck a bitch. A couple of notes to get your hog tied and rope, dope like tons of coke, cutthroat, you don't want the pistols to whistle, candy paint Impala, I make hoes pop collars. Goddamn hoes, here we go again. Fucking with Ren, playing to win. He got the coke in hand, juice and gin. Same shit you was fucking with way back then. What? We keep it cracking from the acting to the jacking. G'd up, C'd up, motherfucker blaze the weed up. We all on deck, fool, so put your heat up. I stay on deck, so man, don't get wet. Look, my nigga, we can scatter like buckshots. Let's get together, make a record, why the fuck not? Why the fuck not? Why the fuck not? Why the fuck not? Cause I'm tight as the night I had to wipe activator off the mic in 1985. Real, nigga, D.I.C. You know. We cause tragedy, erratically, systematically, in your house without a key. Hot fuck. fucked up that'd be. Gotta be near your anatomy, my form of flattery. Assault and battery, cause we coming with that street mentality. Straight West Coast Rider Academy. Concrete, nigga, that's my reality. We tend to bust on niggas that get mad at me. Was it a bitch in the mix? Well, it had to be. Lying tricks, told them dicks that I had a key. Hoes make the world harder than it have to be. Yeah, that's right. I'ma smoke where I wanna smoke. Fuck that. I'ma choke who I wanna choke. Look at these niggas with attitudes. Look at these niggas with attitudes. Hello. I started this gangsta shit, and this the motherfucking thanks I get. Hello. I started this gangsta shit, and this the motherfucking thanks I get. Hello. The motherfucking world is a ghetto, full of magazines, full clips and heavy metal. When the smoke settles, I'm just looking for a big yellow in 6-inch stilettos, Dr. Dre. Hello. Percolating, keeping waiting while you sitting there hating. Your bitch is hyperventilating, hoping that we penetrating. You get snating, cause I never been to Satan. For hardcore administrating, gangbang affiliating. MC Renner had you wildin' off a zone and a whole half a gallon. Get to dialing 911 emergency. And you can tell him it's my son, he's hurting me. And he's a felon on parole for robbery. Ain't no cop in the plea, ain't no stopping the G. I'm in a 6, you got to hop in the 3. Company monopoly, you handle shit sloppily. I drop a key properly. They call me the Don Dada. Pop a collar, drop a dollar. If you hear me, you can holler. Even Rockwallers follow the Impala. Wanna talk about this concrete nigga? I'm a scholar. The incredible, heterosexual, credible. Beg a hoe, let it go. Dick ain't edible. Nigga ain't federal. I plan shit while you handpick motherfuckers giving up transcripts. Look at these niggas with attitude. I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello. I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Villain blows up your spot. Take your notebook, your bitch, and your clock. This motherfucker thought the coochie had a padlock. You slapped her ass, that's alarming, cause she want my worm like Carmen. We chin check niggas, them thin check niggas. Run trains on gold diggers, beware these four niggas. Scaring motherfuckers like Stephen King flicks. Making niggas clear the room like a dyke fleeing dick. Making second to none shit, nigga like quick. So when I bomb first, nigga, who you rolling with? Fuck that ice on your wrist, fuck your fine ass bitch. Cause you can lose it in a tussle, nigga, watch me hustle. Watch niggas kiss my ass without flexing a muscle. Bitches all in the back, they knees waiting to buckle. Same time, same channel, don't change the dial. Niggas for life, fucking your wife, these niggas wild. Hello. I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello. I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello. Did I fall off? Got you in your room ripping every chronic poster on your wall off. It's cause I put away the sawed off. Now I got you sitting back with a smirk, listening with your arms crossed. Questioning Dre's credibility. What? Wondering if it's still in me to produce hits. Y'all be killing me as if I need to make more. I got a mansion and 6 cars that I paid for. Suck my dick. Hello. We came a long way from not giving a fuck. Selling tapes out of a trunk to moving this far up. Now we got the whole world starstruck. Made a million plus and still don't give a motherfuck. Motherfucker, I'm Dre. I don't need your respect. I don't need to make another album, bitch. I don't gotta do shit. I do it because I want to, not to stay in the game. Oh, e questo era Hello. Qua finisce la nostra cavalcata. Che altro c'è da dire? Che altro c'è da dire? Ovviamente due parole vanno spese su Straight Outta Compton, che è un film che è uscito 5 anni fa, che tra l'altro ha visto il sottoscritto rientrare nella sala di un cinema dopo una vita, perché non ci andavo al cinema da veramente tanto. Tra l'altro l'abbiamo anche rivisto qua in uno dei mercoledì in cui facciamo il microfono aperto qui a ZAM. È stato veramente bello perché abbiamo inaugurato con Straight Outta Compton la stagione del film più microfono aperto. Tra l'altro il film, appunto essendo uscito da poco, non era ancora nella versione italiana, ma l'abbiamo visto in inglese con sottotitoli in coreano, se non mi ricordo male. È stato veramente bello, cioè, è stato veramente memorabile, oserei dire. Nel film recita tra l'altro nella parte di Ice Cube il figlio di Ice Cube, che si chiama esattamente come il papà, si chiama Oshie Jackson Jr., quindi come nome ha un cognome, come un cognome ha un cognome, e giustamente era talmente bello che il papà non poteva permettersi di perderlo. Giustamente, che cosa succede? Che ovviamente è un film biopico che ha creato notevolissime polemiche, essendo comunque una storia estremamente recente, perché comunque alla direzione c'era Tommy Cavuz, quindi è ovvio che glorificasse oltremodo la figura di Eazy-E. Nel film infatti viene proprio accusato, senza se e senza ma, Jerry Heller di essere lo scavallone del gruppo, cosa che portò Jerry Heller effettivamente a fare causa alla direzione del film. Poi tra l'altro subì un notevolissimo stress e un anno dopo scomparve. Sostanzialmente gli venne un infarto mentre era alla guida, quindi infarto più incidente d'auto, però sostanzialmente stava, come dire, mettendo mano alle vie legali. Anche Suge Knight partecipò, diciamo, al film, perché appunto non era contento della figura che veniva ritratta nel film, oltre al fatto che la voleva far pagare a Dre, con cui aveva litigato. Quindi si recò sul set del film, dopo un alterco investì una persona che tra l'altro era un suo vecchio amico, lo uccise, ne ferì un altro gravemente, poi in preda a uno stato confusionale venne arrestato per l'ennesima volta, perché già prima di intraprendere la carriera musicale aveva commesso diversi reati, poi era stato in carcere per aver evaso il fisco, che è una cosa in cui negli Stati Uniti non fanno assolutamente sconti. Con questa accusa qui, cioè di omicidio più tentato omicidio più casini vari, oltre al fatto di essere recidivo, gli sono stati dati 30 anni di carcere, 28 anni di carcere, infatti è in questo momento attualmente detenuto ed è, come dire, gli può venire concessa la libertà, gli verrà concessa la libertà vigilata, condizionale, non prima del 2037. Quindi diciamo, come dire, film e realtà come sono influenti, diciamo, quando si parla di cose così, così recenti. Che dire ancora, ovviamente appunto anche alcuni componenti degli NWA storici ebbero qualcosa da dire, come ad esempio appunto Arabian Prince, che sostanzialmente appare in misura microscopica all'interno del film, mentre disse giustamente di aver fatto parte di tutta la formazione storica fino a Straight Outta Compton. Anche MC Ren, insomma, lanciò qualche frecciatina, perché nel promo del film venivano raffigurati Eazy-E, Ice Cube e Dr. Dre, quindi come un trio, mentre diciamo MC Ren faceva la sua porca figura, diciamo, era anche un componente molto importante. Quindi insomma ci sono state tante polemiche, ma è un film che ha comunque riacceso l'attenzione sugli NWA, che hanno fatto anche una sorta di mini tour praticamente accompagnando Ice Cube. Anche DJ L è tornato sulle scene, anche MC Ren, mancava solo Dr. Dre. Sostanzialmente hanno fatto insomma una reunion nel 2015 al BET, mi sembra, c'è un bellissimo video su YouTube in cui insomma, appesantiti un po' dagli anni con le panze, però rappano ancora bene la loro Fuck the Police. E quindi diciamo, questa è la storia degli NWA, più o meno lunga, più o meno breve. Ho parlato un sacco, ma alla fine dietro le tracce c'è un sacco di storia. E beh, ovviamente qualche aneddotuccio ci sta, cerchiamo di stringere perché sennò facciamo notte. Eazy-E, come si può ben vedere dai video, era un piccoletto, era alto circa 1,60 m, però assolutamente carismatico, e la sua figura appunto è stata anche ritratta nel videogioco GTA San Andreas nel personaggio di Ryder. Il suo funerale è stato ovviamente partecipatissimo, venne sepolto in una bara d'oro e appunto il suo vestiario funebre era esattamente quello, diciamo, di tutti i giorni, quindi una maglietta di flanella e i suoi occhiali da sole inseparabili e il suo berretto con scritto Compton. The Game, che è un altro rapper di Compton, ha sul petto il tatuaggio degli NWA e sostiene che Eazy-E sia stato per Compton quello che Giulio Cesare sia stato per l'antica Roma. E tra l'altro appunto The Game si tolse la soddisfazione di rappare con gli NWA, o perlomeno con Dr. Dre e Ice Cube, se documentary 2,5. Quindi diciamo insomma ci sono tantissime curiosità e aneddoti. Abbiamo insomma già detto che sostanzialmente la Roof Fresh Records venne aperta con i soldi dello spaccio di droga da parte di Eazy-E. Si partì con un capitale di 250.000 euro e si finì con un capitale di 50 milioni di dollari. E insomma questo e molto altro, e ovviamente moltissime cose lanciate dagli NWA sono rimaste, come dire, nel sentire comune, perché Straight Outta Compton è diventato, come dire, un una traccia estremamente coverizzata, così come dire Straight Outta Città viene proprio da loro, così come Fuck the Police, appunto, che come dicevamo prima è ancora molto spesso riproposta anche ai cortei, così come insomma tanti altri modi di dire, appunto anche sfacciati, che facevano parte un po' di quello che era The Most World Dangerous Group. E tra l'altro sono stati il primo gruppo che ha vantato l'adesivo Parental Advisory, quello bianco e nero che c'è su tutti i CD pop che abbiate mai visto. Quindi questa è la storia degli NWA, è una storia che noi abbiamo cercato di picciolire in queste due ore insieme, però vi consigliamo di andare ad approfondire, perché c'è tanto tanto tanto tanto ancora da approfondire. Probabilmente faremo delle puntate dedicate. La prossima puntata invece sarà dedicata a un altro gruppo che vi diremo dopo il pezzo italiano. Il pezzo italiano è un gruppo assolutamente criticatissimo, e per questo io ho un po' pensato che fosse un gruppo simile agli NWA, perché effettivamente insomma le critiche sono sempre più su di loro. Il gruppo in questione sono i Club Dog. Noi abbiamo scelto Sacre Scuole, cioè il loro primo progetto, e abbiamo scelto la traccia Chiamati in causa tribunale, appunto, in cui loro dialogano con un giudice ed effettivamente espongono le accuse di cui sono tratti, che poi alla fine è una traccia in un certo senso omaggio agli NWA, perché anche gli NWA avevano fatto una traccia del genere. Quindi questo è Chiamati in causa tribunale. Del codice penale per la divulgazione di notizie di stampa clandestina, cosa può dire a sua discolpa? A processo revocato chi mi ha convocato, di fronte al suo avvocato mi ha provocato, così evocato al mio tavolo l'avvocato del diavolo, come invitato a deporre come teste in veste di chi vorreste farci deporre le teste. Puoi proporre scommesse, ma si corre su strade sconnesse, non esporre promesse, puoi disporre solo di premesse fragili come Creta, non una prova concreta, l'accusa illusa nutre speranze che metto a dieta, presto del resto è un arresto ingiustificato, la gente non è qualificato come pretesto identificato, un testo modificato, falsificato, mai verificato, fui accusato di aver usato un lessico mistificato, codificato in mille rete di sette segrete, io l'erede delle sette stelle rinchiuse in segrete, contatto avrete prove concrete del fatto che l'unica spia con cui si è entrato in contatto di fatto è sul palco per contratto, l'accusa è chiara ma sera sarà polvere come il Sahara, voi avete le armi ma una roulette russa qui spira che spara, sono solo una fonte di pensieri, perforo la fronte dei guerrieri assorbendo nei poteri come i buchi neri, trafficante di concetti puri verso gli stati dell'universo psichico, passando attraverso gli strati ne deformo il fisico, un microfono come uniforme, il fascino della divisa rende fenomeno uniforme, una scena divisa. Agostino Migliore, detto Chief, imputato del reato previsto e punito dall'articolo 412 del codice penale per occultamento di cadavere. Cosa può dire a sua discolpa? Mi dichiaro colpevole, le ho confesso, messo con le spade al muro, per sicuro che Socrate in questo contesto non contesto, perché io rimosso di sfoglie trovate a ridosso di un fosso, coperto da foglie macchiate di rosso, non posso negare l'evidenza dei fatti, ma ciò non toglie che ciò di sfoglie giurati dagli atti già redatti da quest'udienza, e in sostanza qui se ne coglie l'essenza, la moglie del signor opulenza subiva misfatti, atti di violenza, pensa da giorno uno, di cui due furono in confidenza, seguirono tre anni di dipendenza, bastarono quattro ore per far crollare l'altare di ogni speranza, cinque furono i colpi che squacciarono il cielo di quella stanza, sei le volte che lei pregò il Vangelo, verso le sette il cielo, la bozza è completamente col suo velo, era qui vi svelo il mistero delle otto monete trovate, cognate con nove vite rubate, legate, promesse mai mantenute, svanite tra le sue mani, una dopo l'altra come dieci piccoli indiani, l'indomani per caso pervaso da una smania che dilania anima e corpo, mossi i miei passi tra i cipressi, nei pressi dell'orto, scenario del torto, dove tre orchidee azalee fiorivano idee per cui cercavo in vano il supporto della mia musa, la musica l'unica illusa reclusa in una cassa da morto, ultima vittima di un parto finito in aborto, signori della corte qui taglierò corto, vi riporto la mia unica colpa di aver tentato di dare la vita per l'ultima volta. Francesco Vigorelli, detto Fame, imputato del delitto previsto e punito dall'articolo 575 del codice penale per aver cagionato la morte di Lamini la minchia, cosa può dire a sua discolpa? Vostro onore, giudica un uomo innocente, troppo superficialmente accusato di un reato senza movente, uscì di casa quel giorno, entrai al party ma dentro era un forno, mi aprì la giacca e feci un giro guardandomi attorno, così vi dice di che beveva appoggiato al bancone, mi avvicinai per fargli una sorpresa a 100 persone, JD ingannava l'attesa con un coglione, mi avvicinai a mano tesa, così la parte lese per un nome, scambiammi inutili chiacchiere, lui capì che io ero l'uomo da battere, io che lui era l'uomo da battere, è ora di combattere, disse prendendo il micro, dissi se vuoi morire ti sfido, io i cani li uccido, camminammo fino al palco, iniziamo a sfidarci, sferrammo addosso parole e concetti al posto di pugni e di calci, coi corpi mobili, nervi e muscoli tesi, concetti pesi, con la complessità di Dio programmi cinesi. Le nostre frasi diventavano blocchi sospesi e combattevano mantenendo i nostri corpi illesi. Fu così che i miei colpi lo stesero. Le sue parole indignate guardandolo in faccia lo uccisero. Così si invalida la tesi di omicidio. Ma è un complesso suicidio messo in atto da una psiche cercata dall'odio. Signori, la giuria noterà che il fatto è evidente. Quindi inquisito per niente, aspetto la soluzione imminente. Vittorio Pizzo, detto Zippo, imputato del reato previsto e punito dall'articolo 656 del codice penale per aver diffuso notizie false e tendenziose. Cosa può dire a sua discorso? Elevo le rime, unico giudice astratto, ma così reale perché le rime sono noi di fatto. Troppe parole versate da ogni direzione, padroni della situazione. Troppi giudici esterni che non sanno più qual è la loro professione. Pensa al tuo lavoro, che io penso a questa mia missione. Tu che programmi, tu che fai, tu che puoi. Non ti schierare perché non sono cazzi tuoi. Non prendere parte, non ti intromettere. Sono cose serie, non riflettere, non perdere tempo in cose che non puoi capire. Il carattere e lo spessore della faccenda che non puoi sentire. Senza la vita passata allo spattimento, membra stanche sul cemento, spruzzi di colore in controvento. Rime scritte con sentimento, anni su anni per un movimento fuori dall'isolamento. Non importa quanto vendi, non scrivo rime per stipendi. Non mi importa quanti soldi prendi, perché quelli come te non saranno mai contenti. Prima o poi tutti scendono e ti lasceranno. Tutti, ora che tutti ti difendono e ti amano. E a giudicare saranno solo le rime, perché alla fine solo le rime contano. Cosimo Fini, detto il Guercio, imputato del delitto previsto e punito dall'articolo 575 del codice penale per aver cagionato la morte di Luca Azzuduro. Cosa può dire a suo discorso? Fatemi superare la commozione per la tensione. Sarò pronto a firmare la deposizione. La mia imputazione, omicidio plurimo. Da quando l'anonimo Cosimo divenne il Guercio al microfono. Davanti a lei, giudice capo, racconterò da principio ciò che tra poco mi farà pendere a un cappio. Col cannone puntato costretto, ho consegnato ogni mio verso composto ad un porco col volto coperto, mascherato da presidente morto. Senza le rime ero finito, ma l'avrei servito come Blanco a Carlito. Era in gioco l'onore come i pizzi. La sera stessa in un bar su disfavo i miei vizi. Raccolsi i primi indizi per trovare le liriche. Intercettazioni telefoniche, sincronizzavo già le arance meccaniche. Il mandante, classico insidoratorio, per carta straccia il migliore del circondario. Il mio movente erano le 7:11 come a dadi, numero vincente. Quando puntai il mio microfono alle sue tempie, processo per direttissima. Violenza genera violenza, per me le rime o la vita, difesa legittima. Fuoco nel tribunale, mi hanno provato a rieducare come Alex, ma non si può meccanizzare ciò che è naturale. Stammi a scontare la peggiore delle condanne, ma prima l'ultima siga con cui darò il posto alle fiamme. Colpevoli, sono stati dichiarati colpevoli, la sentenza è inappellabile. E questo era Chiamati in causa tribunale, un pezzo super storico. Io me lo sono pimpato tantissimo come Tramp Sis al cubo. Tra l'altro accanto a me c'è una persona che dovrebbe avere la copia originale di Tramp Sis al cubo. Sì, ce l'avevo, ma devo ritrovarla. Ritrovala, ritrovala, che a quanto pare sul mercato collezionistico è un pezzo pregiato, perché può valere anche ben due gambe e anche di più. Sì, faccio il video come il DJ Graf che spacca il vinile di sangue misto. Ma io non lo spaccherei, io lo venderei, però, sono gusti, tanto insomma, voglio dire, la musica bella non ha prezzo, come il beat di Pulsar Beat. Io volevo dedicare la traccia, ecco questa qui, diciamo a tutti coloro che apprezzano i Dogo e soprattutto insomma a Sharby, che è uno dei nostri ascoltatori più assidui, oltre che appunto uno dei più grandi fan dei Dogo. E che dire? Abbiamo insomma detto tutto quello che c'era da dire sugli NWA. La prossima puntata vi aggiorneremo su quando sarà sulla Coca Nostra, quindi un altro collettivo bello potente. E, diciamo, normalmente questa sarebbe la parte degli eventi, però insomma, vista la situazione corrente, non ci sono eventi militanti da segnalare, però vi invitiamo ad ascoltare la radio, perché sarà veicolo di informazione in questi giorni travagliati, esattamente come fu tra marzo e maggio. Vi invitiamo ad ascoltare i programmi insomma della serata, che dovrebbe essere una continuata di Zona Rossa, la notte bianca della radio, e insomma di seguirci noi come Underground Pusher, piuttosto che Radio ZM, piuttosto che tutti i programmi di Radio ZM, piuttosto che il collettivo ZAM sulle pagine social, perché insomma in momenti come questi la comunità resistente, diciamo, si manifesta sempre presente, per fortuna. E quindi, diciamo, con il beat di Pulsar, il beat non apprezzo, vi salutiamo. Abbiamo poi insomma qualche altra traccetta lasciata lì, tra cui qualche traccia magari un pochino più ironica degli NWA che volevamo così proporvi, e insomma ci risentiamo presto sempre su queste frequenze. Bella raga, yo yo yo yo yo.